Canto 31 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 31. O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era parutacro, ricominciò seguendo senza conta, di se questo è vero, a tanta accusa tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, poi disse: «Che pense? Rispondi a me, che le memorie triste in te non sono ancor dall'acqua offense». Confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal sì fuor della bocca, al quale intender fu mestier le viste. Come al balestro frange, quando scocca, da troppo tesa la sua corda e l'arco, e con men foga l'asta al segno tocca, sì, scoppia io sottesso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce allentò per lo suo varco. Ond'ella a me: «Per entro i miei disiri, che ti menavano ad amarlo bene, di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fosse attraversate o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessi ti così spogliar la spene? E quali agevolezze o quai avanzi nella fronte degli altri si mostraro, perché dovessi lor passeggiare anzi?» Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose, e le labbra a fatica la formaro, piangendo dissi: «Le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose». Ed ella: «Se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice sassi. Ma quando scoppia dalla propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contro al taglio la ruota. Tuttavia, perché me vergogna porte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le sirene, sie più forte, pon giù il seme del piangere ed ascolta. Sì, udirai come in contraria parte muover doveati mia carne sepolta. Mai non t'appresentò natura o d'arte piacer quanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui e che son terra sparte. E se il sommo piacer si ti fallio per la mia morte, qual cosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio? Ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallaci levar suso di retro a me, che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne ingiuso ad aspettar più colpi o pargoletta o altra vanità con sì breve uso. Nuovo augelletto due o tre aspetta, ma dinanzi dagli occhi depennuti rete si spiega indarno o si saetta. Quali i fanciulli, vergognando muti, con gli occhi a terra, stannosi ascoltando e se riconoscendo e ripentuti, tal mi stav io». Ed ella disse: «Quando per udir sei dolente, alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Con men di resistenza si di barba robusto cerro, ovvero a nostral vento, ovvero a quel della terra di arba, ch'io non levai al suo comando il mento, e quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento, e come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature da loro apparzion l'occhio comprese, e le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in su la fiera, che solo una persona in duo nature. Sotto suo velo ed oltre la riviera verde, pareami più se stessa antica vincer che l'altre qui quand'ella c'era. Di penter si mi punse ivi l'ortica, che di tutt'altre cose qual mi torse, più nel suo amor più mi si fe inimica. Tanta riconoscenza al cuor mi morse, ch'io caddi vinto, e quale allora femmi, salsi colei che la cagion mi porse. Poi, quando il cuor virtù di fuor rendemmi, la donna, ch'io avea trovata sola, sopra me vidi, e dicea, tiemmi, tiemmi. Tratto m'avea nel fiume infino a gola, e tirandosi miei dietro sengiva sovresso l'acqua, lieve come spola. Quando fu presso alla beata riva, asperges me, si dolcemente udissi, ch'io non so rimembrar, non ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciomi la testa e mi sommerse, ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse, e bagnato m'offerse dentro la danza delle quattro belle, e ciascuna col braccio mi coperse. Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle, men renti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là che miran più profondo. Così cantando cominciaro, e poi al petto del grifon seco menarmi, ove Beatrice volta stava a noi. Disser, fa che le viste non risparmi, posto t'avem dinanzi agli smeraldi, ond'amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri, più che fiamma caldi, strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti, che pur sovra il grifon stavano saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con uni, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava quando vedea la cosa in sé star queta e nell'idolo suo si trasmutava. Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé asseta, se dimostrando del più alto tribo negli atti l'altre tre si fero avanti, cantando al loro angelico caribo. «Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi!» era la sua canzone, «al tuo fedele, che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. O splendor di viva luce eterna, chi pallido si fece sotto l'ombra, sì di Parnaso, o beve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti, là dove armonizzando il ciel t'adombra. Quando nell'aere aperto ti solvesti? Fine del canto 31.